Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Nel mio lavoro non chiedo mai il perché, le domande che faccio riguardano il quando, il dove qualche volta, ma sempre il quanto. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Riding a studs back at gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh. Quello che io noto, e glielo dico veramente in totale onestà, è che il Movimento 5 Stelle, in Italia come in Europa, viene comunque percepito e trattato come un corpo estraneo, da comunque eliminare e buttare fuori. Io vi dico la mia, io personalmente sarei rimasto dove stavamo, ma sono convintissimo, perché non c'era motivo secondo me in questo momento di andare a cambiare questi equilibri. Io ho votato addirittura per non aderire all'Alde. Noi le scelte che facciamo non le facciamo mai in base ai soldi. Se facessimo delle leggi in base ai soldi avremmo preso i rimborsi elettorali. Ecco, ma li abbiamo rifiutati. Ma... è il movimento del 5 Stelle che in questo momento è un po' in difficoltà, ma che hanno combinato, mamma mia, adesso tutti guardano a Casaleggio Junior, Casaleggio Junior, e qualcuno rimpiange Casaleggio Senior forse per questa improvvisa giravolta mancata all'Europarlamento, volevano andare coi liberali e quelli gli hanno fatto i pernacchioni, questa è la sintesi estrema, cioè, loro volevano andare di là. Era tutto pronto, hanno votato anche, come votano quelli del Movimento 5 Stelle online, per andare di là con i liberali, e quelli di là hanno detto no, scusate, ci siamo sbagliati, non ci piacete più. L'establishment ci ha cacciato. Ma no, dai, Grillo, l'establishment adesso, gomblottoni anche qui, è venuta male un'operazione politica, è nata male ed è finita peggio, tutto qua, succede ai partiti politici. Ops. Ah no, è vero che non sono un partito, sono un movimento. Va bene, succede. Signori, eccoci qua, sono le 6:32 minuti e 24 mattino, ormai siamo al 10 gennaio e quindi siamo in pieno... Ah, c'è clima di neve qui a Milano, c'è profumo di neve a Milano, anche qui al nord, mentre laggiù al sud, vorrei subito chiamare Barione Adinolfi, laggiù al sud. Eccolo lì, come va a neve? Fa freddo pure qui comunque. Fa freddo? Hai dato il piumino ai figli per andare a scuola? Mamma mia, sta roba, che paese da terzo mondo. Che città da terzo mondo, che città da terzo mondo, la capitale mondiale, coi piumini agli allievi, eh? Venite col piumino. Oggi i giornali non vedevano altro, sono le foto di questi studenti che invece di fare le contestazioni, i cortei, le occupazioni con la K, hanno i piumini e si fanno vedere con le coperte, con le foto. Mamma mia, ragazzi, e Ale, per due giorni i giornali sono salvi. Caro Marione, prima di salutare la nostra ospite, anzi che salutiamo subito, è Flavia Perina. Buongiorno Flavia. Buongiorno a tutti. Come va di giù, sempre al sud? Al sud, insomma, fa freddo, ma adesso non esageriamo. Io, peraltro, su questa faccenda dei piumoni, ma io un termosifone a scuola non l'ho visto mai. Ecco, Giumoni ci sono andato a scuola tutta la vita. Adesso poi... capisco che i tempi sono cambiati, che nella modernità magari uno pretende anche occupavi, no. Tanto in aula non c'entravi. No, non occupavo, si studiava anche, andava ben coperti, perché era raro il funzionamento del termosifone. Sì. Però devo dire a Marione Dinolfi, caro Marione, come stai? Tutto bene? Il 2017 è iniziato benissimo? La grande, a Doha lì faceva caldo. Eccola là. Vuole subito tentare di disinnescare. È che tu hai azzeccato il pronostico. Senti qua, l'hai azzeccato in realtà. Senti. 3-0 Dybala Higuaín. 3-0 avevi detto. Effettivamente è finita 3-0. Hai sbagliato partita, caro Marione. Era il Bologna, era hai sbagliato partita. Domenica è finita 3-0. Domenica, però insomma, sei sempre stato visionario tu, guardi avanti. Guardi molto avanti. Peccato che a Doha invece insomma, è finita in modo diverso. È la Supercoppa. Supercoppa. Vabbè, scusaci Flavia, lo so che parliamo di calcio. No, ma io passo, tranquilli, tanto sto guardando i giornali. Andate avanti tranquillamente su questa cosa. È femmina, va bene, sopporta. No, scusa, è che dovevo, ce l'avevo qui tipo dal 20, quando è successo? 23 dicembre. Dal 23 dicembre ce l'avevo qui. Mi capisci che dal 23 dicembre ce l'avevo qui. Dai, apra il Parlamento, su, parliamo di cose serie. Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma forza, ma dove è finito Renzi? Flavia Renzi sta tornando, attenzione, sta preparando lo scouting. Lo scouting. Ieri stava preparando un libro, oggi sta preparando lo scouting. Ogni giorno sta preparando qualcosa. Aspettiamo e vedremo. Insomma. Ogni giorno alla sua. Lo scouting sta preparando il programma. Qualcuno che gli dice invece che lui deve fare come Cincinnato, deve starsene lì nel suo piccolo paese e aspettare che lo richiamino a furor di posto. Che secondo me è piuttosto difficile che succeda. No, ma in realtà sta preparando il nuovo programma, sta attendendo domani cosa decide la Corte Costituzionale se ammettere il referendum sul Jobs Act. Pare che voglia che gradirebbe un sì da parte della Corte Costituzionale e poi si spera per lui che si voti a giugno ed è pronto a tornare. Oh, tra l'altro, gran rottamatore, sta preparando un posto per Fassino agli esteri. Fassino. Caro Adinolfi, ma è finita il renzismo? È finito? No, ma che... Avremo una stagione di renzismo ancora importante, perché Renzi deve essere il segretario del partito e sarà sicuramente il candidato premier del PD. Questo non riesco a vedere alternative. La cosa interessante è che sarà candidato premier per non fare il premier, perché in uno scenario da legge proporzionale il candidato premier è l'unico che sicuramente non farà il premier, come è evidente a chiunque capisca un po' di politica. Quindi lo schema è segretario del partito, gli diranno bravo, applausi, candidati al premier, ti facciamo pure le elezioni e dopo... pensiamo noi, questo è il meccanismo che secondo me rischia. Ma secondo te Renzi accetta una cosa del genere? Ma dai, Renzi ha l'idea di poter forzare la mano, questa è una delle sue caratteristiche, che purtroppo prescinde dalla realtà dei fatti, perché ha provato lo stesso meccanismo con il referendum. Il referendum è stata una grande forzata di mano senza capire che stava 20 punti sotto, quindi la sua caratteristica è questa: tentare sempre la forzatura. Ora tentare la forzatura sulla televisione. Tentare il colpo gobbo, diciamo. A te, giocatore di poker, dovrebbe piacere questo atteggiamento. No, perché bisogna farlo sempre dalla parte giusta delle probabilità. Se lo fai dalla parte sbagliata, sei il giocatore perdente. Ho capito. È la cosa peggiore del mondo. È la cosa peggiore. Basta. Bocciato, Flavia, bocciato anche dal giocatore di poker. No, io non sono tanto d'accordo. Sì. Diciamo, nella prospettiva del proporzionale, Renzi è una delle uniche persone che può fare l'accordo con Berlusconi, perché poi la prospettiva del proporzionale è quella, andare al voto. Avete capito che Berlusconi non si fida più di Renzi. Che ne sai, è il gioco della politica, quello che vediamo sui giornali, alla televisione, poi nella realtà. Gentiloni per Berlusconi, guarda quanto è bello. Gentiloni. No, nella realtà io penso davvero che Sì, potrebbe farlo anche con altri l'accordo, però in un dopo voto, tra l'altro lui se resta segretario del partito di maggioranza relativa, cioè alla fine le carte ce l'ha in mano lui in questo caso. Però Adinolfi dice non è finita la stagione del renzismo, però ci sta dicendo che ha finito in realtà, perché in qualche modo ci hai detto che avrà un ruolo marginale, che per Renzi vuol dire nulla. Il renzismo è quello che ho declinato anche spesso in questa trasmissione, cioè l'idea di se stesso come imperatore. Cioè vinco, mi faccio la legge elettorale mia, mi faccio dare il premio di maggioranza apposta sull'Italia come governo con una camera sola da sindaco di Firenze come sindaco d'Italia. Quella prospettiva secondo me è finita. Poi se riesce ad adattarsi ad un ruolo di segretario di partito all'interno di coalizioni multipartitiche in cui sicuramente il punto di equilibrio non può essere il segretario di partito, questa è la cara vecchia Prima Repubblica, che però ha dei nomi diversi. Cioè il governo Gentiloni è un governo che tutti pensano è un governo di 3B, ma è un governo che fa le prove generali delle larghe intese. Questo è abbastanza evidente. Sì, è la democrazia cristiana che torna e sempre di più. Invece non lo so, il pentapartito, chiamalo come vuoi, insomma è sempre la democrazia cristiana era. Flavia, il Movimento 5 Stelle, tuoi amici, ricordiamolo, tuoi grandi amici, vuoi passare una buona giornata di qualcosa contro il Movimento 5 Stelle, poi diamo il tuo account Twitter e così. No vabbè, poverini, oggi è proprio sparare sulla Croce Rossa, anche perché alla fine li ha fregati l'ALDE, cioè loro probabilmente avevano un accordo in tasca e i liberali europei si sono resi conto che al di là delle ambizioni del loro presidente che mira ad avere, che con i 5 Stelle avrebbe avuto il terzo gruppo per consistenza numerica nel Parlamento europeo, non ce la potevano fare. Ma infatti uno dei grandi sconfitti, noi guardiamo sempre le cose dall'Italia, ma guarda che Verhofstadt, cioè il capo, pare sulla stampa è distrutto. Cioè l'hanno praticamente i suoi, quelli dell'ALDE, lui che puntava così alla presidenza dell'Europarlamento, cose di politica noiosa, però è stato distrutto da questa cosa. Ha fatto una figura barbina lui, ha fatto una brutta figura al 5 Stelle che si è fidato evidentemente di un accordo che non era così solido. Questa era una grande mossa da politicanti, fatta dal 5 Stelle, ma fare i politicanti serve molto pelo sullo stomaco, esperienza, anche in questo campo loro sono un po' dei debuttanti. Gli hai detto il peggiore insulto? Hai detto il peggiore insulto possibile, gli hai dato dei politicanti. Non c'era modo migliore per insultarli, gli hai dato dei politicanti. Serve una competenza anche per quello. Serve essere una di Adinolfi, uno che la politica la mastica da 20 anni, da 30 anni. Ma mi dà un po' di curiosità questo 78,5% di critici che votano sì all'ALDE? Sì, abbastanza. Cioè quello che dice, quello che dicono i vertici, loro si adeguano. Ma diciamo. Quasi tutti i partiti di quel tipo sono così. Tu hai dei dubbi su questo 78%? Io ho seri di dubbi su come funzionano questi voti online. È stato truccato, questo ci stai dicendo. Sinceramente questo voto, il 78,5% della base grillina, dalla sera al mattino, diventa liberal democratica come Mario Monti, perché con Verhofstadt c'era Mario Monti. A me pare un numero incredibile. Cioè che 78,5%. Che stai dicendo che taroccano? Taroccano allora. Io pongo questo dubbio. A voi sembra credibile che dalla sera al mattino avete conosciuto la base grillina? Li vedete liberal democratici con l'Oden? A me sembra più credibile che alla base grillina dicono fai così, bisogna fare così perché conviene e fanno così. Ma non è una cosa così grave, cioè non è che gli hanno detto di buttarsi da una rupe. Cioè, questi sono diventati liberal democratici dalla sera al mattino. Ma non sanno neanche che vuol dire, ma la maggior parte di chi segue un po' la politica, secondo te, sa che vuol dire l'ALDE? Cioè, non gli hanno detto conviene andare all'ALDE. 40.000 militanti, gente che la segue perché lo fanno quotidianamente, che hanno gridato, erano Napalm 51 fino al giorno prima, il giorno dopo sono diventati Mario Monti. Questa cosa secondo me è credibile. Non è solo Adinolfi che pone dei dubbi. Proprio che conosce bene le dinamiche della rete e conosce attraverso il mondo gridino, anche attraverso la rete, quello è il territorio del credere, obbedire, combattere, insomma, là il capo dice una cosa e è quello, la regione secondo me banalmente è quello. Non lo so, a me sembra che quelle votazioni online ci abbiano fatto. Sono un partito fortemente fideistico, là è come se il Papa avesse dato un'indicazione, sì, un messaggio. Ma se il Papa dice al conclave mi hanno votato per 70%. Capito, ma questa Marione la capisce e l'apprezzi anche tu. Come il Papa, grillo come il Papa. Ma qual è l'intelligenza del Papa? Che i dati del conclave non te li dice mai. Ok, questa è l'intelligenza millenaria della Chiesa. Anche di grillo. Ora, vedi, invece ti danno dei dati al numero, proprio qui, sì. Tutte le volte, guarda caso, tutte le volte inevitabilmente ratificano le decisioni del capo. Sì, ovviamente, sì. Secondo la sua, cioè non è che c'è un posto dove tu vai a verificare che lo spoglio sia andato così. No, è vero. Tu sei dubbioso sul metodo. La questione, sì, poco seriamente la questione. Ma no, ma infatti, ma non sei il primo. Io sono più dell'idea, lo so, che sono la mazza dei pecoroni. Volevo dirlo in un modo. La mazza dei coglioni. No, questo non l'ho detto. L'hai detto. L'hai mascherato. Però, ho detto che il capo ordina e la base segue. Io ho rispetto dei militanti grillini che conosco e mi sembra molto difficile vederli trasformare dalla sera alla mattina in seguaci di Mario Monti. Con l'Oden, per tutta franchezza. Però Flavia, questo un po' c'ha ragione, se no dobbiamo pensare che sia... Il paragone, il mondo grillino per molti versi è un'opposizione radicale, assomiglia per molti versi al vecchio PC o al vecchio MIS. Se Berlinguer o Almirante hanno fatto tanti strappi, hanno dato tante direzioni che per i militanti erano magari sorprendenti, però venivano seguiti comunque, perché a prescindere erano dei grandi leader, a prescindere. Se Almirante diceva iscriviamoci al PLI altissimo, ha voglia a far sentire, lo ha fatto. È successo. Almirante ha fatto l'accordo con i monarchici, che all'epoca era una cosa inguardabile per il mondo del MIS, e il mondo del MIS lo ha seguito senza contestazioni. È già due volte, Flavia, li hai paragonati a partiti, già due volte. Prima... sostanzialmente loro sono un meglio di me che l'hai paragonati ai coglioni. Ma non è vero che li ho paragonati ai coglioni, ma basta. Milan due punti, militanti del sono una mazza di coglioni, seguono un po' quello che dice il capo. Andiamo al traffico, va, seguitevi il traffico. Milan, mandami il traffico, altrimenti a schifeo finito. Buongiorno, bentornato Milan. Buon lavoro e bentornato a nome di Mario, tassista di Roma, a nome di tanti colleghi del turno di mattina. Buongiorno, che gioia ritrovare tutta la squadra. Bacione a tutti. Alino, viva le province, lunga vita le province. Province. Le porte della Lega sono aperte per tutti gli eletti e gli elettori dei 5 Stelle che in buona fede vogliono continuare a combattere questa Europa e questo EU. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Hai capito intanto, Flavia Perino e Mario Dolfi, Salvini? C'è prova, vede i grillini un po' spaesati, venite qua. Oh, ma ragazzi, ma è questa la politica? Flavia, tu che l'hai vista in Parlamento, cioè cos'è un mercimonio di persone, di culi che si spostano? È, diciamo, una disperata guerra per il consenso, perché tutti sanno, magari non si vota quest'anno, ma l'anno prossimo sì, nessuno sa nemmeno con che regole si voterà. Ho capito, ma uno si sveglia grillino, il giorno dopo si sveglia leghista, ma che è? Infatti poi non succede così, infatti poi dopo le percentuali, se uno va a guardare i sondaggi, gli spostamenti sono lo 0,5 o lo 0,3, però ci prova. Comunque voglio salutare con grande affetto Mario e tutti i tassisti, ma non Mario Di Nolfi, tutti i tassisti di Roma, sai che ci seguono tantissimo, Marione, i tassisti, i tassisti sono una categoria... È decisiva, peraltro. Decisiva, sono a voti. A Roma sentono le radio della Roma, per la verità, però... È vero. Io salgo sui taxi a Roma, c'hanno sempre le cose, infatti Flavia Perino non so come fa a vivere a Roma, cioè c'hanno sempre robe sulla Roma, da Lazio, Roma. Ma è molto interessante. Poi le radio della Roma in realtà parlano tantissimo di politica e non è che parlano soltanto della Roma. Sì. Perché dopo un po' calcio 24 al giorno, è complicato e determinano anche molto l'opinione pubblica. I tassisti a Roma sono un blocco elettorale assai realtà importante. Chiunque ha vinto le elezioni lo ha fatto con l'appoggio dei tassisti. Pensa quando sale Marione Di Orfi, Juventino Doc, su un tassino. No, ma c'è un altro Marione che spopola nelle radio. Sì, certo, come no. Però può giocare sul sinonimo, potrebbe giocare sul sinonimo. Esatto, ma che quando sali, che ti dicono Juventino? Si discute. Non prende il taxi, secondo me. Tra l'altro devo fare una cosa. Cambio taxi. Abbiamo due cittadini di Roma, Doc. Allora, io devo fare una cosa. Tanto io sono di Milano, quindi chi se ne frega. Devo fare una cosa. Marino. Hanno archiviato tutto dicendo sì che è stato un po'... Pure questa storia degli scontrini. Cioè, non ha fatto niente di male, cara Flavia Perina, tu che... Vabbè, ma questo si era capito che, insomma, contro Marino c'era stato un po' d'accanimento. Marino, cosa ha fatto di male questo sindaco? Beh, si è messo in urto diretto con il suo partito al punto che sono andati al notaio per sfiduciarlo. Siamo sempre in quella logica lì del credere, obbedire, combattere, che i partiti alla fine vogliono comunque... Sì, ma per i cittadini di Roma, cioè che male ha fatto alla città di Roma? Cosa ha fatto di male? Era genovese innanzitutto, e quindi diciamo la città di Roma aveva delle difficoltà anche a capirne il carattere, che era assai diverso da quello del romano medio. Andava in bicicletta, che a Roma, per carità, c'è una rispettabile minoranza che va in bicicletta, ma non è che è proprio... Mi stai rilanciando il grido Marino, ma va di nuovo. Che ti ha fatto di male, Marino? Ti ricordo, gli hanno arrestato mezzo consiglio comunale. C'è stato questo piccolo problema che ogni giorno gli arrestavano un assessore, uno che stava con Buzzi. Buzzi gli aveva pagato la campagnetta. Insomma, non era proprio una situazione di quelle limpide, diciamo. Io non lo rimpiango, francamente. Non lo rimpiango. Ma il disastro di questa città è l'assenza della classe dirigente. Appunto, devi oscillare tra Marino e Raggi, cioè tra il nulla e niente, insomma, quindi questa è la tragedia. Abbiamo avuto una stagione, secondo me, di sindaci capaci, perché Rutelli è stato un buon sindaco a Roma, anche il primo Veltronicolo è stato pessimo, dopodiché è cominciata la stagione di incompetenze e anche di latrocini pazzesca, insomma, e questo ha coinvolto centrodestra, centrosinistra, e purtroppo la selezione della classe dirigente fatta dai grillini, prendeva un arrestato per corruzione, un'indagata per reati ambientali per stall'ambiente. Questa è la tragedia, non è che una cosa sia inventata. A un certo punto è stata l'opposizione del PD a Marino. A Marino gli hanno arrestato per mafia capitale il presidente del consiglio comunale. Vabbè, come leggiamo anche le motivazioni. Non ha fatto nulla, cioè, è stato un po' imprudente. Ma dai, se vedi la moglie a pranzo l'hanno domandata con il video imprudente, va bene, però... se andassero a vedere gli scontri di tutti i sindaci d'Italia, va bene, allora, però non era una stagione di fulgido governo della capitale, che continuava a perdere 200 euro all'anno. Allora, abbandoniamo un attimo la politica, adesso voglio parlare di questa cosa seria. Abbiamo una donna qui e voglio intanto chiedere a lei questa vicenda che è successa a Messina. Guarda che io sono sconvolto, Flavia, di leggere di questa ragazza che spesso si è detto in Italia i femminicidi, eccetera. Questa ragazza che è stata, a cui è stato dato fuoco, probabilmente, sono sicuri gli inquirenti, dal fidanzato. E l'avete vista tutti forse in televisione, questa ragazza urlare, dimenarsi, a dire non è stato lui, lasciatelo stare, è l'unica persona che ho, è il mio amore. Insomma, si dice in questi casi amori malati, cara Flavia. Tu però sei donna, quindi hai la doppia sensibilità, diciamo, ci puoi dire anche qualcosa a noi maschietti? No, amori malati è una espressione proprio sbagliata. Qui c'è un delinquente omicida che sceglie... un modo orribile, tra l'altro, per compiere il suo delitto, tirare la benzina e dar fuoco a una persona, è veramente un modo orribile, tribale, e c'è una donna evidentemente succube psicologicamente, ma non è l'unica, sta dentro la categoria. Non è l'unica perché la violenza domestica, perché un certo tipo di violenza porta a questo. Tra l'altro, non possiamo neanche escludere che ci sia un elemento di paura, di paura della vendetta, e questa vicenda avviene in un quartiere estremamente degradato, ed è immaginabile che una ragazza, una signora, pensi, sì, io lo denuncio e poi come, e poi dico, che succede? Come ma, vado in giro, ma come? Però parenti, vedi, amici, però è la questione, dicono tutti, denunciate, hanno, no, ci sono le leggi, sì, che certo, ti proteggono. Evidentemente queste leggi non funzionano, evidentemente la protezione è materiale, ci sono le leggi ma poi non ci sono le persone, perché in tantissimi casi di violenza di questo tipo poi chi denuncia deve cambiare paese, cambiare città, viene ma dici la paura, però c'è anche proprio, io vedevo questa disperazione, non so, chiedo a Marione, Marione tu stai attento che sulle donne poi dici delle cose, già quando dici le donne sottomesse ti hanno crocifisso. Ecco, come sai, per me è un punto d'onore essere crocifisso. Ecco, va bene, ho detto, so, la, dato, parola, ho detto la parola che, sbagliata. Esattamente. È il dato che emerge, secondo me, non credo sia un elemento di paura. La donna è una donna innamorata. Davanti all'elemento della donna innamorata. Innamorata. Cioè, si può essere innamorati di una persona che sei stato lui che ti dà fuoco. Questa è la tua valutazione. Se lei è innamorata, qual è l'elemento centrale dell'innamoramento? L'elemento centrale dell'innamoramento è l'irrazionalità. Perdi le coordinate razionali e hai un rapporto, si può definire malato se vuoi con la tua aggettivazione, ma questo però... è il dato che va fotografato. Io non credo che la donna stia dicendo quelle cose che abbiamo visto dire per paura. Primo perché lo dobbiamo escludere, poi diciamo esiste in tutta la letteratura psicologica una sindrome che si chiama sindrome di Stoccolma, che è quella del, del carcerato. Una sindrome da croce rossina, no? Come si da croce rossina c'entra poco, cioè entrare nella categoria dell'amore mi sembra veramente un fuor d'opera, perché proprio conoscendo ci sono tantissimi casi di questo tipo, gli elementi dominanti sono la sindrome di Stoccolma, cioè il fatto di sentire un legame per il proprio carceriere, proprio torturatore, ed è molto spesso il dato anche del davanti alla denuncia. Cioè effettivamente, cioè tu dici la paura, ma vedi queste frasi anche della madre, la madre di lei, lui era geloso e possessivo, puoi litigare, magari dare uno schiaffo ogni tanto, ma certo, così questa, no. Certo, questo è il contesto in cui una donna si convince che è lecito per un uomo alzare le mani e mettergli le mani addosso, in questi contesti. Io alle mie figlie gli dico, se il fidanzato vi dà uno schiaffo, lascialo dopo 5 minuti, e se ti dà più di uno schiaffo va in commissariato e denunciano. Lo so. Quando c'è un contesto ma è questo il contesto su cui combattere. Che lo schiaffo è lecito, certo, però non possiamo dire che è amore. No, è impossibile parlare di innamoramento. Anche secondo me, però Marione, perché come fai a dire che è amore? Perché l'amore perché è razionale. No, perché sei uomo, perché sei uomo, Io ripeto, faccio il cronista, guardo la vicenda e dico, l'elemento che noi stiamo giudicando è un elemento irrazionale, quella donna è stata ferita in maniera grave probabilmente dal suo uomo, davanti a questa ferita lei grida che non è stato lui, cioè dice qualcosa di irrazionale, lo grida, per quale ragione? Questa è la domanda che ci stiamo facendo. Secondo voi perché è stata intimidita dal contesto? Secondo me perché è innamorata. Tutto qui. Va bene, lasciamoci con questo dubbio, insomma con queste anche divergenze di opinioni. Intanto vi ringrazio Marione Adinolfi, Flavia Perina, per essere stati con noi. Andiamo al giornale radio e poi sarà tempo di rassegna stampa. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Anche stamattina andiamo a leggere il giornale di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Signori, siamo qui, sono le 7:18 minuti, devo fare un annuncio. Attenzione, attenzione. Domenica sera torna Platone al Teatro Manzoni di Milano alle 20:45. Vi aspettiamo io, Leonardo Manera, che è il vero motore di Platone, ideatore di Platone. Ci saranno i comici dello Zelig, ci sarà anche Mauro Meazza con i Chapter 11 che suoneranno. Ma vi rendete conto? Insomma, rideremo tantissimo sul lato comico dell'attualità. Allora, domenica sera al Teatro Manzoni di Milano alle 20:45. Attenzione, perché da oggi ho deciso che regaliamo qualche biglietto per i nostri fedelissimi ascoltatori. Regaleremo da qui a giovedì 5 coppie di biglietti. quindi vinceranno 5 persone che però vengono in 2 a teatro, E come si fa a vincere? Vuoi dire, come si fa a avere questo bel bigliettone? Allora dovete un po', dai, facciamo un giochino, nel senso che questo è lo spazio della rassegna stampa. Tra poco vi dirò una notizia, magari quella da Mani sul volante, e voi dovrete mandarci un bel titolo, come se foste i direttori di un giornale. Un bel titolo sulla notizia, dove me lo mandate? Me lo mandate via SMS al 349 238 6666, lo sapete, è il solito numero, via SMS oppure via WhatsApp, quello che volete. E che dire, magari, ecco, piccola raccomandazione, se siete dalle parti di Milano è meglio, perché se mi scrivete un bellissimo titolo da Canicattì, sarebbe bello che voi veniste domenica da Canicattì, però ecco, in attesa noi di andare in tournée, magari scriveteci dalle zone di Milano. Ovviamente vinceranno i biglietti quelli che, a mio insindacabile giudizio, faranno il titolo migliore. Tra poco, tra poco vi do la notizia. Dai, intanto andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Martedì 10 gennaio, siete pronti? Guardate che non è che vince il più veloce, cioè il biglietto. È così, lo darò a chi mi garba, a chi mi garba, è questo regalo che vi faccio. Allora, intanto i titoli, le aperture dei quotidiani sono sulle banche e su Grillo, i 5 Stelle. Queste le due notizie principali. Intanto le banche, il Sole 24 Ore, Veneto Banca e Vicenza, via libera ai mini rimborsi. Ma attenzione, perché ad esempio La Verità, banche, nomi e cifre dei grandi debitori, e anche Libero titola Montepaschi, i primi nomi dei debitori. Cominciano a uscire i nomi dei debitori di Montepaschi, come ha chiesto Patuelli, come si potrebbe venire a sapere se viene approvata una legge. Il Fatto Quotidiano, guerra per banche, per salvare se stessi i banchieri dell'ABI rinfacciano i crack ai debitori. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre un colpo ai 5 Stelle in Europa, il titolo del Corriere della Sera. Repubblica, Unione Europea, porte chiuse a Grillo. La Stampa, Europa, schiaffo dei liberali a Grillo. Per l'Unità, mandiamoli a scuola. I liberali d'Europa respingono i dilettanti grillini. E anche il Messaggero, Grillo, lo schiaffo dell'Europa. Come vedete, un po' tutti. Ma io voglio partire da che cosa? Voglio partire da quello che è successo a Nola. L'abbiamo visto per foto. Ne abbiamo parlato, i giornali raccontano questa foto denuncia su Facebook di alcuni malati al pronto soccorso ospedale di Nola che sono adagiati sul pavimento perché non c'è neanche una lettiga, non c'è neanche un letto, non parliamone, una barella, sono adagiati lì sul pavimento, foto che ha fatto scandalo, il presidente della regione Vincenzo De Luca che sospende i responsabili di medicina d'urgenza, pronto soccorso e anche il direttore sanitario, chiede licenziamenti, sospesi tutti, parla, intervistato da Marco De Marco a pagina 21 del Corriere della Sera, il dottor De Stefano, che si chiama Andreo De Stefano, non è un errore, non è un refuso, Andreo, non Andrea, Andreo De Stefano, perché è nato a Caracas, è italiano comunque, si è laureato, si è specializzato in Italia, allarga le braccia, direttore sanitario dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dice «Ah sì, ora mi vogliono anche licenziare?» E che le vuole che le dica? Si accomodino, vedremo. L'Italia è un paese strano. Ma dottore, non l'hanno informata di queste intenzioni del presidente De Luca? Me lo sta dicendo lei, sono le 18.50 di lunedì. De Luca ha chiesto di avviare le procedure per buttarla fuori dall'ospedale. Senta, io sono qui che lavoro. E qui oltre a non avere barelle, perché in ospedale ce ne sono solo 17, comprese le 10 del pronto soccorso, e le due sequestrate alle autoambulanze, non abbiamo né la radio né la TV. Quando tornerò a casa, forse, mi avrò il tempo di informarmi. E poi parla di quelle foto, il direttore sanitario. Quelle foto non sono belle da vedere, lo so, ma cosa dovevamo fare? Abbiamo preferito curare in quel modo le due donne che tutti hanno visto, piuttosto che non dare loro assistenza. Erano sistemate su due sedie e poi si è deciso di metterle giù quando sono andate in crisi. E poi fa questo esempio brutale, se volete, sui posti. Senta, se lei in garage ha posto per una sola auto e ne deve sistemare tre, cosa fa? E dica lei, trova una soluzione, no? E noi così abbiamo fatto, bisogna capire che eravamo in piena emergenza. I miei medici si sono comportati da eroi, altro che storie. E lo scriva, la prego. Così si difende. Dunque abbiamo 107 posti e ci sono 300.000 abitanti. Quei medici, eroi. Così il direttore sanitario di questo ospedale che finisce come caso Nola un po' su tutti i giornali. Viene intervistato anche dal Messaggero Andreo De Stefano e dice: i problemi li abbiamo segnalati più volte. Finirà con i dirigenti cacciati? Vedremo, vedremo. Allora, a me invece ha molto colpito questa vicenda di cronaca terribile di questa ragazza di Messina a cui è stato dato fuoco, e questa è la tragedia vera. Certo, però tutti si sono concentrati, tutti si concentrano anche sulla strenue difesa che lei ha fatto del fidanzato, che è il maggiore accusato di averle dato fuoco. Da fuoco alla ex, poi si costituisce, ma Ilenia lo difende. Non è stato lui. Forse avete visto in TV la difesa anche proprio di rabbia: lasciatelo, liberatelo, non è stato lui. Una difesa abbastanza folle, così la definisce il giornale, la folle pietà per il carnefice. C'è anche Michela Marzano su Repubblica che dedica un fondo, un pezzo, un articolo a questa vicenda. Racconta Michela Marzano: è stato lui, il suo ex fidanzato, a coprirla di benzina, a darle fuoco, ma non è lei ad accusarlo, anzi lei lo difende. Non è stato lui, non c'entra nulla, non prendetevela con un innocente. Com'è possibile? È questo l'amore? Ormai lo sappiamo da tempo che esistono alcuni uomini che non riescono nemmeno a concepire la possibilità di essere lasciati da fidanzata e moglie. La donna per loro è solo un oggetto. Quando la possiedono hanno il diritto di trattarla come vogliono, e se lei osa andarsene è meglio ammazzarla. Ma nell'amore malato alcune donne ci sprofondano piano piano, inesorabilmente, non appena si illudono di poter riparare o cambiare un uomo violento. Forse sono anche loro piene di insicurezze, bisognoso di avere accanto una persona capace di farle sentire speciali. Forse non hanno molta fiducia in loro stesse, aspettano solo di scoprire un giorno, grazie proprio a quegli uomini, di avere anche loro valore e dignità. È questo il circolo vizioso dentro il quale si ritrovano tante ragazze, tante donne vittime della violenza, prigioniere di un'idea dell'amore che in realtà non esiste. Forse perché nessuno ha mai spiegato loro che l'amore, quello vero, è fatto di libertà, di riconoscimento reciproco. Forse perché nessuno è mai stato capace di riconoscerle per quello che sono, sempre e comunque degne di rispetto. Ma l'amore è proprio questo, tutto il contrario appunto del possesso, della gelosia, della violenza. Così Michela Marzano su Repubblica. Ma certo è incredibile anche gli scampoli di alcune frasi di questa ragazza Ilenia, che ha subito, ripeto, questa tragedia, le è stato dato fuoco, ma dice anche di fronte alle frasi: che è successo, racconta Repubblica, e che sono uno sbirro io? Nemmeno così l'ha accusato. Per carità, dico solo meditate. Allora, Repubblica continua, anche noi ci concentriamo anche con Oscar Giannino sull'Italia degli imboscati. Oggi altre storie. Persone come al pronto soccorso dell'oftalmico di Roma, racconta Carlo Picozza, pagina 11 di Repubblica. È il solo ospedale del centro-sud dedicato esclusivamente alla cura delle malattie degli occhi, l'unico di Roma a disporre di un reparto emergenza sempre aperto, ma che ha un direttore dimezzato, o meglio esonerato, affrancato per motivi di salute da guardie notturne, festivi, reperibilità chirurgiche per le urgenze, gran parte dei normali turni di servizio, ha una patologia e la privacy impedisce di sapere quale sia questa patologia. Per cui questo dipendente, così dice il direttore sanitario e il direttore generale, anzi, allargando le braccia, è vero, non può fare, è esentato da molti turni. Così come Antonio Fraschilla racconta una storia che già avevamo affrontato, sempre a pagina 11 di Repubblica, il mistero in regione per cui ci sono in Sicilia 2.800 sindacalisti e quindi, in quanto sindacalisti, nessuno può essere trasferito. quasi il 20% dei 15.000 dipendenti ha una delega, è sindacalista, non può essere trasferito. Anche qui avevano chiamato l'assessore, aveva detto che si sarebbe fatta chiarezza. Questo un mese fa circa, chissà. Ma ci siamo, ci siamo. Eccolo qui l'articolo che mi fa pinzare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante, ed è qui che vi voglio sfidare a raccontarmi che titolo fareste su questa notizia. Perché attenzione, al miglior titolo, a mio insindacabile giudizio, verranno dati oggi due biglietti, due coppie di biglietti, quindi quattro biglietti, per venire a teatro domenica a vederci a me, Leonardo Manera, Mauro Meazza, tutti i comici, o Zeliga al Teatro Manzoni di Milano, 20:45 domenica sera. Allora, il titolo scrivetemelo al 349-238-6666, magari scrivetemi anche da dove siete, se siete zona di Milano è meglio, meglio, non è razzismo, ma quando faremo insomma una tournée italiana daremo biglietti anche in tutto il resto d'Italia. Ed è la notizia di Libero sulla beffa dei vigili assunti, ma inabili a lavorare. Questo è il titolo di Libero, ma voi fatemi il vostro di titolo. A Milano c'è il 15% di vigili che sono inabili a lavorare e quindi non possono stare in strada. A Napoli si è arrivati al 60% di vigili che sono inabili a stare nel traffico e dunque devono stare dietro le scrivanie. Presentano ovviamente certificati in base ai quali evitano i servizi in strada, racconta tutto Claudio Smetti a pagina 15 di Libero. E voi che titolo fareste su questa vicenda dei vigili assunti ma inabili a lavorare? Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessà, Alessà, a me uno che si chiama Milan, che ti ha la parola tutti i giorni, a me azza, mi vado proprio una barzelletta. Ciao Montalbano. Ciao. Brindisi. Ciao Montalbano, mamma mia, mi state riempiendo di titoli, guardate che poi domani dirò ovviamente quelli che hanno vinto a mio insindacabile giudizio, anzi della redazione qui di 24 Mattino, tiro dentro anche Peter Bescapè e Lorenzo Nespoli, le due coppie di biglietti, oggi diamo due coppie di biglietti, quindi oggi portiamo a teatro quattro persone, domenica, sulla notizia dei vigili inabili. Allora, continuate a mandare i titoli. Intanto, ne saranno arrivati già 100, 150. Non so stargli dietro, mamma mia. Sarà un lavoro oggi. Va bene. Allora, Grillo, Movimento 5 Stelle, hanno tentato questo passaggio al gruppo dei liberali di ALDE, di Guy Verhofstadt, al Parlamento europeo. Hanno anche votato i militanti del 5 Stelle, hanno anche deciso che bisognava fare questo trasferimento nel gruppo di ALDE. Quando tutto sembrava definito, quelli di ALDE hanno detto no, noi non vi vogliamo. Questo è in pratica il sunto della giornata di ieri, davvero clamorosamente negativa per il Movimento 5 Stelle. Grillo respinto, resta solo in Europa, titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. Parla, vari giornali lo intervistano, l'europarlamentare Movimento 5 Stelle Pedicini, Pier Nicola Pedicini, intervistato dal Corriere della Sera, dice: io, premettendo che non esiste un gruppo perfetto, ho votato per passare ad ALDE, condividevamo con loro circa il 60% delle votazioni, poi non sappiamo i dettagli della loro marcia indietro, forse si tratta di mal di pancia interni di alcune delegazioni per la nostra eventuale presenza, di sicuro è stato poco elegante. Il blog di Grillo ha incolpato l'establishment, io credo più nei mal di pancia interna al loro gruppo, dice l'eurodeputato Pedicini. Effettivamente la difesa di Beppe Grillo è stato l'establishment, cioè questo urlare un po' al complotto, fa scrivere a Massimo Gramellini il Buongiorno oggi sulla Stampa dal titolo Il Grillo e l'Uva, no? Che è un modo per rivisitare la famosa parabola della volpe e l'uva. Che ridere, scrive Gramellini. Ricapitolando, l'apprendista strillone Giuseppe Grillo entra nel nuovo anno con un'idea meravigliosa, allearsi col partito dei banchieri, l'ALDE, roba da Monti, come se un vegano invitasse a cena una batteria di cheeseburger. Il vegano si affaccia dal balcone del web, sottopone il cambio di dieta alle tastiere cloroformizzate che approvano. Ma cosa c'entrerà mai il movimento delle scie chimiche, dei complotti plutomassonici con gli alfieri internazionali del capitalismo allo stato brado? Se fosse una scelta politica sarebbe una fesseria, ma trattandosi di scelta tattica va ritenuta una furbata, spiega ai perplessi l'astutissimo Di Maio. Dopo il colpo di scena, il contraccolpo. L'Alde ci ripensa. Il capo Verhofstadt e i suoi soci francesi devono aver visto finalmente su internet un comizio del Dibba e, ripresisi dallo spavento, si ammutinano. Ma è qui che Grillo, dal meglio di sé, accusa del mancato accordo il famigerato establishment. Un gomblotto dei cattivi ha impedito ai 5 Stelle di allearsi coi cattivi. Chiaro, chiarissimo. McDonald's che toglie il doppio cheeseburger dal piatto del vegano. E dove sarebbero la logica e la coerenza? Di sicuro sappiamo solo dov'è finita l'intelligenza politica del movimento, con Casaleggio padre nell'aldilà. Qui è rimasto il re dei quacquaracquà. Questo l'impietoso giudizio di Massimo Gramellini oggi sulla Stampa. Tra l'altro il Giornale fa un retroscena interessante e dice che in realtà c'era un motivo per questo passaggio all'Alde. Il motivo, scrive Giampiero Timossi, le mire di Casaleggio era puntare all'e-commerce, cioè andare all'Alde, nel gruppo Alde, per scalare la commissione mercati grazie a David Borrelli, imprenditore nel settore informatico, ora europarlamentare del Movimento 5 Stelle, uno che ha intuito che l'e-commerce è il futuro, è uno dei punti di forza anche della Casaleggio Associati, che forse punterà su questo. E perché la visione si concretizzi servono gli uomini al posto giusto. Borrelli potrebbe fare la sua parte nella commissione dove vota. Ed ecco dunque, secondo il Giornale, era uno scenario molto, come dire, commerciale. Questa era la strategia di Grillo. Vai a sapere se è vero, ma questa è la lettura del Giornale, più che di Grillo, forse della Casaleggio Associati. Va bene, archiviamo questa pagina, questo tentativo di cambiare, come dire, gruppo andato male, e veniamo all'altro grande tema del giorno, cioè il Monte Paschi, o meglio le banche. Il governo apre sulla lista dei debitori. Sapete che il dubbio e il dibattito è, come ha chiesto Patuelli, come vogliono molti, bisogna rendere noti, visto che il Monte Paschi è stato salvato con soldi pubblici e forse anche altre banche toccherà questo destino, bisogna accantonare la privacy e si vuole sapere il nome, i nomi dei 100 almeno dei primi 100 debitori insolventi. È interessante il commento di Luigi Zingales, oggi in prima pagina del Sole 24 Ore, racconta appunto di questo, parla delle crescenti perdite, del salvataggio pubblico e dice, scrive Zingales, certo, è importante ricordare come la pubblicazione dei primi 100 nomi sia solo il primo passo verso una doverosa operazione di trasparenza su cause e rimedi della crisi bancaria. Gli altri due pilastri essenziali sono una commissione d'inchiesta sulle cause della crisi e una totale trasparenza su chi beneficia di rimborsi statali per i subordinati. Senza una commissione d'inchiesta seria, la pubblicazione dei nomi gioverebbe solo a trasferire la colpa dai banchieri ai debitori, come ha cercato di fare il presidente dell'ABI Patuelli, parlando del reato di mendacio bancario, ovvero falsa dichiarazione per ottenere il credito. Se debitore inaffidabile ha ricevuto un ammontare spropositato di credito, è colpa delle menzogne dei debitori o della insipienza e collusione delle banche? Si chiede Zingales, e lo stesso dubbio è sulla pagina del Fatto Quotidiano, pagina 6, con l'articolo che racconta questa di Patuelli, è la più clamorosa post-verità dello storytelling. La prima fu che era colpa dell'ignoranza dei risparmiatori se venivano truffati allo sportello. Ora l'ABI ha riproposto l'indimenticabile «Non siamo noi imbroglioni, siete voi che siete fessi». La seconda è che le banche, caricandosi di crediti inesigibili, hanno fatto da ammortizzatore sociale a famiglie e imprese. La terza post-verità è proprio questa. Imprenditori senza scrupoli hanno imbrogliato i banchieri ottenendo crediti con dati di bilancio falsi. Ecco, il Fatto dice, come anche il Sole, non bisogna spostare le eventuali responsabilità delle banche sugli imprenditori. Certo, però, in attesa di questi nomi, i nomi sono già sui giornali. Perché La Verità e Libero pubblicano alcuni nomi, ovviamente non è la lista ufficiale, ma La Verità, in titolo di prima pagina, banche, nomi e cifre dei grandi debitori, Eccolo qua, Francesco Bonazzi, a pagina 2, per esempio, dal Monte Paschi ha preso Sorgenia di De Benedetti, 600 milioni di prestiti, anche la Tassara di Roman Zaleski, il cui enorme debito bancario è stato ristrutturato 3 anni fa, aveva ricevuto 200 milioni. Poi si parla di Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, che sono stati anche coinvolti negli appalti del G8, si parla del gruppo Marcegaglia, si parla anche del gruppo Sole 24 Ore. Va detto per dovere di cronaca, su Libero Franco Bechis fa anche altri nomi, parla di molte cooperative rosse, società della famiglia Fusi, aziende pubbliche, la CEA, la Metro C, l'ATAC di Roma, tutte beneficiarie di finanziamenti da parte del Monte Paschi. Va bene, questa, come detto, è l'apertura del Sole 24 Ore, caro Mauro Meazza, ma noi... Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Siete Alessandro, pronti? Buongiorno. Guarda che qua stanno arrivando, hai visto che diamo un po' di in omaggio, un po' di biglietti, sono arrivati almeno già 200-250 titoli su... Quindi cioè, adesso ci sarà uno spoglio e nostro insindacabile giudizio. Se vuoi al bar anche tu, te ne leggo uno, coma vigile. Sui vigili in abito. Possiamo poi tenere in nota anche dei migliori titolisti, magari potremmo avere certo, bisogno per, ma no? per il giornale o vigili o anche ma radio. Incapaci domenica c'erano anche Chapter 11, c'è anche Mauro Meazza, ci sono anche Marco Loconte, c'è Stefano Elli, suonano i Chapter 11. Bene, bene, chi verrà vedrà, chi verrà vedrà. Intanto ti voglio dire, oggi è martedì, sì? Quindi condominio. È il giorno del condominio. Bene. Perché voglio partire proprio dal condominio, perché oggi c'è una doppia offerta per il condominio. Da una parte la pagina che abitualmente trovi in Norme e Tributi, questa volta parliamo della trasparenza bancaria anche lì per il condominio, penso un po', non solo ne parliamo per le grandi banche in difficoltà, ma anche per il condominio, perché il condomino ha diritto di vedere come va il conto corrente del condominio, e lo ha detto una sentenza di cui riferiamo nella pagina di condominio. Ma in più oggi, con il Sole 24 Ore, il quaderno dell'esperto, quindi una serie di approfondimenti e risposte proprio sulla materia del condominio, che so che ti è molto cara, giusto? Molto, tu vivi in condominio? Sì. In condominio. Sì, è ovvio che vivo. Come milioni e milioni di italiani. Allora, come poi pensai che vivessi in un castello? Non so, ma pensavo anche ti fossi magari comprato case all'estero, non so, con questi trasferimenti, i due urini che continui a far girare, vabbè. Ma comunque ti voglio dire invece, ti voglio segnalare, c'è questa intervista al ministro De Vincenti che annuncia un cambiamento per il bonus sud, cioè il sostegno agli investimenti nel sud, con una, diciamo, una revisione abbastanza importante, perché dice che fino adesso è stato poco utilizzato. Ma ne parla con Carmine Fotina oggi sul Sole 24 Ore, tutti i particolari a pagina 6. E poi ti segnalo due articoli da meditazione congiunta, adesso ti spiego che cosa intendo. Da una parte ci sono i dati sulla disoccupazione e, come hai visto, sono saliti leggermente gli occupati, ma ahimè sono saliti anche i disoccupati, specialmente nella fascia dei giovani. Come questo sia avvenuto te lo spiega Claudio Tucci. Se vai però qualche pagina più avanti vedrai che sono anche diminuiti i lavoratori indipendenti, ad esempio quelli che lavorano a partita IVA. Ecco, il quadro complessivo, secondo me, se uno legge prima l'articolo di pagina 7 e poi quello che trova più avanti sugli autonomi, spiega abbastanza bene, invita a meditare, spiega abbastanza bene la situazione. Oh, ti voglio dire che però il canone Rai è andato benissimo, sì. 2 miliardi, forse anche più, di incasso, quindi il passaggio in bolletta gli ha fatto bene. E poi infine volevo salutare con un augurio il nuovo presidente dei commercialisti, perché sai che i commercialisti hanno eletto ieri il loro nuovo presidente, si chiama Massimo Miani. Visto che si occuperà di fisco, diciamo che noi gli facciamo i nostri migliori auguri, perché avrà sicuramente parecchio da fare. E tutto ciò premesso, vi aspettiamo naturalmente domenica, mi immagino. Tu vieni, sì. Alessandro? Certo. Ah, no, perché non ho capito se ci vieni o no. Va bene, e nel frattempo, caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico! Alessandro Milan, ma perché la butti sempre a caciara? Va bene, allora, eccoci qui. Renzi, Renzi, che non è scomparso, ma sta lavorando al proprio ritorno, così almeno raccontano i giornali. Giovanni Bianconi racconta in un retroscena oggi a pagina 8 del Corriere della Sera che tifa per il sì della consulta. Domani la consulta, cioè la Corte Costituzionale, si riunirà in Camera di Consiglio per decidere se dare via libera ai referendum sul Jobs Act. Sono tre quesiti: Jobs Act, voucher, appalti. Poi il 24 gennaio la Corte dovrà decidere sui ricorsi contro l'Italicum, cioè la legge elettorale, cose molto politichesi, ma sono importanti perché se dovesse approvare i referendum la Corte Costituzionale, secondo alcuni il voto potrebbe essere più vicino. E infatti, racconta il Corriere, Matteo Renzi gradirebbe che la Corte Costituzionale dichiarasse ammissibile il quesito promosso dalla CGIL. Tra l'altro lavora la nuova squadra, si parla di scouting, di nuovi giovani, di nuovo programma. Certo, Libero fa una provocazione a pagina 6, ma non era un rottamatore Renzi, perché dà una poltrona a Fassino. Sta scegliendo la nuova segreteria e per gli esteri ci sarà spazio all'ex sindaco di Torino. Anche Goffredo De Marchis racconta, pagina 6 di Repubblica, cambia squadra Renzi, la nuova ricetta per il PD, giovani intellettuali, però c'è anche Fassino, per carità. Non si deve personalizzare, ma eccolo qui. Ho una parziale invece, vittoria per il redivivo Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, che era stato assolto. Sono state pubblicate le motivazioni dei famosi scontrini per le cene di rappresentanza. In pratica il giudice ha fatto capire che da Marino c'è stata superficialità, ma niente reati. Caso scontrini, ecco i motivi dell'assoluzione di Ignazio Marino, pubblicati a pagina 5 del Messaggero, ma pubblicati anche sul Fatto Quotidiano a pagina 9. Superficialità negli scontrini da parte di Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, ma non alcun reato. Oh, vi voglio raccontare alcune cose di cronaca molto interessanti. La prima, Il Giorno dedica due pagine alla scuola e all'arrivo di sempre maggiori scuole in cui c'è il diploma a 4 anni, cioè in 4 anni. Lo studio è quello di cercare, il progetto è quello di cercare di innovare con sempre più licei brevi, dove si studia 4 anni e si arriva al diploma un anno prima rispetto alla situazione attuale. Al liceo il diploma in 4 anni, parte la rivoluzione in 100 scuole. L'Italia così si allinea all'Europa per andare in anticipo all'università o nel mondo del lavoro. L'idea è quella di accorciare il percorso scolastico, che in Italia dura 13 anni, per consentire di accedere all'università o debuttare nel mondo del lavoro un anno prima. Sono i cosiddetti licei brevi. C'è il dibattito, ovviamente, è giusto, è sbagliato, però è un modo per allinearsi all'Europa, e Il Giorno dedica 2 pagine a questa vicenda. Mentre sulla Stampa c'è a pagina 13 un'intera pagina che racconta come in Italia siamo sempre più single, la famiglia non ci interessa, questo è il titolo. Il dato Istat del 2016, il numero delle persone sole sfiora gli 8 milioni. E tra l'altro pochi cercano l'anima gemella, ed è una categoria che è sempre più interessante per quel che riguarda il business. Il dato sorprendente, volete saperlo, dov'è? Soprattutto la regione in cui si è più single, cari italiani, sapete qual è? La Liguria. Liguri, cosa avete? Perché? Per quanto? Non lo so. Comunque 2,1 componenti per famiglia contro una media nazionale di 2,4. Questo è il dato sorprendente per la Liguria. Comunque Alessandro Cassini racconta, pagina 13 della Stampa, il dossier dell'Istat: siamo sempre più single. Poi sempre per quel che riguarda la cronaca, questa volta cronaca estera, vi segnalo sempre sulla Stampa Francesco Grignetti, l'intesa raggiunta, così si dice in tono forse un po' troppo trionfale, come speriamo bene, tra l'Italia e la Libia. Il dossier è il migranti, il petrolio, il terrorismo. Sarà un accordo in più punti, ricalcherà quelli del 2008 e del 2012. Per questo dico troppo ottimismo, non è che la situazione poi ha portato a meno migranti, eccetera. Però il prossimo memorandum tra Italia e Libia del ministro dell'interno Minniti, impostato ieri a Tripoli, punterà a un accordo per combattere insieme scafisti, il terrorismo, i traffici illeciti da droga a idrocarburi. In cambio l'Italia promette alla Libia aiuti con mezzi navali, terrestri, strumenti, formazione, soldi. Per carità, ripeto, si è visto tante volte in passato, speriamo che sia la volta buona. Allora, una pagina del Corriere della Sera. Come definirla se non l'articolo più inutile oggi sui giornali, l'articolo che vince la carta costa di oggi? Luca Mastrantonio, una pagina intera sul galateo da utilizzare per i messaggi audio. Sapete che ormai non si mandano più SMS, non si mandano neanche più testi WhatsApp, si mandano gli audio, no? Ti mandano gli audio. Picciu picciu, sono qui a comprare le mutandine. Cippa lippa, comprami anche le calze. Ecco, tutto così, no? E c'è il galateo. Pensate ai consigli del galateo. Di una pagina del Corriere. Attenti, vi ascoltano. Tipo, se vi arriva un messaggio, magari di uno o di una che vi fa qualche apprezzamento, non ascoltatelo a volume alto nel mezzo di un teatro o di un cinema. Ecco, attenti, l'amico vi ascolta. Ma chi se ne frega?